qua. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Two, two, two, two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti da Gigi Telesforo, appuntamento numero 177 del nostro soundcheck prova del suono di Radio 24, e vado subito a presentarvi e a salutare il mio compagno di merende, compagno di musica, una persona che conosco praticamente dall'infanzia, anzi lo devo dire, ha la responsabilità di aver modificato geneticamente il mio comportamento, il mio DNA, facendomi ascoltare tutta la musica che era presente in casa e in famiglia quando io ero bambino. Quindi, ladies and gentlemen, madame e messieurs, signore e signori, vi presento mio padre, l'architetto Roberto Telesforo. Buon pomeriggio, architetto. Ti posso dare del tuo e chiamarti papà? Certamente. Certamente, papà, buon pomeriggio. E come ti trovi? Come stai? No, sto benissimo. Ecco, allora, oggi ascoltiamo musica. E perché sei qui? Lo vuoi dire tu? Perché sei venuto a trovarmi? Perché fra due giorni... E fra due giorni è il tuo compleanno. È il mio compleanno. Purtroppo sai, ogni anno non manco mai al tuo compleanno, e infatti sei molto carino. Io purtroppo non potevo venire a trovarti a Foggia per motivi di lavoro, però hai fatto bene a raggiungermi con mamma. Che cosa mi avete portato di buono da Foggia? Ti ho portato un paio di dischi, Gigi. Un paio di dischi? No, ma a parte i dischi, perché come avrai notato la casa è piena, studio è pieno. Ti ho portato le orecchiette. Ecco, le orecchiette. Queste sono cose, i broccoli, molto bene, gli scaldatelli, il cacio cavallo podolico, il podolico del Gargano. Perché ci prepariamo per questo martedì compleanno. Io non volevo festeggiarlo perché ormai gli anni sono diventati parecchi, e volevo bypassarlo, però visto che ci siete tocca organizzare la festa e tocca organizzare anche l'airplay, la playlist da suonare fra due giorni per gli amici, e ci saranno anche dei musicisti, ma ci saranno anche amici comuni che non sono così appassionati di musica. È sempre stato un nostro grande problema questo. Una grossa limitazione. È una grossa limitazione, ma devo dire che tu mi hai creato dei problemi, perché trasferendomi il morbo e la passione per lo swing e per il jazz, quando io, te lo voglio dire, te lo voglio confessare, quando io avevo 13-14 anni e frequentavo le feste degli amici, così, teenagers, e portavo i miei dischi, e beh, succedevano cose brutte, perché mi odiavano, e quindi io difficilmente, portando bebop e jazz, riuscivo ad abbracciare delle ragazze. Argomento che ho appreso più tardi. Non so per te com'è andata da ragazzo. Beh, ti dico la verità, per me da ragazzo è andato in modo diverso, perché era il 1945, i miei 15 anni, che era di moda il boogie-woogie, che gli americani ci avevano portato questa musica, no? Con la guerra. Tu hai già raccontato che gli americani portarono due cose, i dischi, la musica e le bombe. Le bombe. Quindi ballavamo con i dischi di Glenn Miller, di Artie Shaw, poi venne Tommy Dorsey, bravo. Quindi c'è le grandi orchestre di allora, guidate dai grandi maestri, direttori d'orchestra, con le star di quel periodo. Però poi iniziarono ad arrivare delle formazioni anche ridotte, tipo il quintetto. Cominciamo con Luis Prima, che accese proprio il modo di ballare, di divertirci, di cantare. Poi soprattutto per gli italiani, perché Luis Prima, italo-americano, utilizzava moltissimo l'italiano per le sue composizioni. Qual è un brano che vorresti ascoltare di Luis Prima? Beh, il classico di Luis Prima. Buonasera signorina. Buonasera signorina. Yes. Guarda, li mettiamo tutti e due. Intanto partiamo con Buonasera signorina, poi c'ho anche un Just a Gigolo favoloso. Va bene. Questo è il soundcheck di Radio 24, ospite l'architetto Roberto Telesforo. Ti è piaciuta questa presentazione, papà? Eccezionale. Grazie, sei gentilissimo. Andiamo avanti. Eh sì, un classico di Luis Prima con Buonasera signorina. È tornato in auge questo campione di swing italo-americano che mise su una formazione eccellente. Tra l'altro, una delle sue composizioni, Sing Sing Sing, fu utilizzata utilizzata anche dall'orchestra di Count Basie come sigla. È un brano che ancora oggi si ascolta nelle playlist contemporanee, magari in chiave più moderna. Dunque, parlavamo con il mio papà, che oggi è presente qui nel Groovemaster Studio, proprio perché mi ha portato un po' di prelibatezze pugliesi per organizzare il compleanno che ci sarà martedì. Che peccato, papà, faccio una bella cifra quest'anno, Sono arrivato a 53. Non parlare della cifra che farò io. Ah no, io la so e la voglio anche dire, perché tu il 7 gennaio arrivi a 80. Complimenti. Sì, papà. Vabbè, bella. Ma te li porti bene. Grazie. Vabbè, qualche acciacco c'è, ma stai bene, no? Gli acciacchi non mancano. No, poi tu sai che quando si ascolta musica cambia tutto, no? Perché la musica tira su il testosterone, tira su tutto. Ti tira su qualcosa la musica? Quello che è rimasto non proprio tutto non proprio tutto. Vabbè, senti, allora dicevamo di Luis Prima. Perché ti piaceva Luis Prima? Anche perché io lo so perché c'era un sassofonista. Sì. Chi era? Mi pare Sambutera. Sambutera, bravo, Butera. Anche lui italo-americano, eccellente sassofonista. E tra l'altro c'era un sassofonista italiano che mi ricordava Sambutera, che era Sal Genovese, che suonava con noi con Renzo Arbore quando facevamo quelli della notte. Te lo ricordi? Grande amico. Allora, facciamo un altro ascolto di Luis Prima, campione di swing qui al Soundcheck di Radio 24. Ti omaggio, mio caro papà, con un brano che sicuramente hai ascoltato e che ti ha permesso anche di ballare e palpare la mia mamma. Sì. Forse l'hai rimorchiata proprio con Just a Gigolo. No. Vabbè, ti sto mettendo in imbarazzo. Vai, Just a Gigolo, Luis Prima al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Don't you know? E pur crescendo in una famiglia, in una casa piena di dischi di jazz, naturalmente non potevano mancare anche i vinili di Ray Charles, e qui era proprio The Genius in Person, in un classico del suo repertorio intitolato Hallelujah, I Love Her So, un brano che fece anche scandalo in quel periodo, perché Ray Charles coniugava il gospel, le armonie tipiche del gospel, utilizzando però dei testi che parlavano d'amore e in qualche caso anche di sesso, mio caro papà. Ecco, non so se era un argomento che negli anni 50 andava di moda, il sesso. Beh, quello è sempre andato di moda. Sempre papà, andato di moda. Soprattutto in Italia. No? Beh, però insomma, allora bisognava muoversi in un certo modo con le ragazze, no? Beh, ma si ballava cheek to cheek con i dischi di Don Marino Barreto. Ecco, tipo, io lo so che tu hai conquistato mamma con una canzone di Don Marino tu Barreto. Tu sei per me la più bella del mondo. Me lo ricordo benissimo, ce l'abbiamo a casa in 78 giri, no? Sì. Eh sì, perché abbiamo diviso la discografia con papà. Io ho portato nel mio studio gran parte dei CD e alcuni vinili ai quali ero affezionato, anche perché alcuni li avevo comprati io. Per il resto è rimasto tutto da te. Sì, a casa me ne sono rimasti solo 3.000. Beh, sono abbastanza vinili. Però prima o poi vengo lì, metto in una borsa e me li porto tutti quanti. Perché siamo rimasti in pochi a comprarli i dischi, papà, te lo voglio dire. Noi e i giapponesi. Sì, perché è uscito un articolo, ne abbiamo parlato proprio in questi giorni, che in Giappone continua a esserci la vendita dei CD, non amano tanto Spotify, quindi tutta la nuova tecnologia, ma continuano ad avere questa passione proprio per l'acquisto dell'oggetto. Io continuo a comprare dischi. Sì. E ultimamente ho preso quello di Keith Jarrett. Ah, il disco nuovo di Keith Jarrett. Il disco di Keith Jarrett, che è bellissimo. È bellissimo, quindi lo consigli anche agli amici che ti ascoltano su Radio 24. È un altro disco che sono alla ricerca, è quello che hai presentato giorni fa in trasmissione, quello di Tony Bennett e Lady Gaga. E Lady Gaga, che è già primo in classifica dappertutto. Noi l'abbiamo presentato in anteprima. Guarda, magari il prossimo weekend te lo faccio ascoltare un'altra volta. Oppure te lo regalo io, dai. In un negozio e te lo compro. Allora, stavamo parlando di Ray Charles e ti faccio ascoltare una delle composizioni più famose di Ray Charles, che è What I Say, ma non nella sua versione, in una versione di qualche anno fa realizzata dal chitarrista John Scofield. Poi nella seconda parte, tu ti trattieni anche nella seconda parte, quella che arriva alle 19:30, quella più vicina al tuo mondo, quella del jazz. Sì. No, perché ti faccio ascoltare anche una novità di John Scofield, che intanto qui apprezziamo con questa sua versione di What I Say, con la partecipazione partecipazione di un sassofonista tenore, quindi sarei felice tu da sassofonista, il vecchio David Fathead Newman, che era il sassofonista originale di Ray Charles, e poi tutta una serie di amici da Neville, dai Neville Brothers, quindi la voce di Aaron Neville, Mavis Staples, Dr. John, per What I Say di Ray Charles nella versione di John Scofield. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. The In Crowd, un brano di Bill Page che abbiamo conosciuto e scoperto alla fine degli anni 50, primi anni 60, noi appassionati di jazz, nella versione live del trio diretto dal pianista Ramsey Lewis. Qui invece era Gregory Porter dal nuovo album Liquid Spirit, con il quale si è aggiudicato anche i suoi bei Grammy Award nell'ultima edizione. Ecco, io ho una domanda per l'architetto Roberto Telesforo, ovvero il mio papà, oggi presente nel Groovemaster Studio per questo appuntamento del Soundcheck, che suonava a casa quando io ero bambino la sua musica preferita, i suoi vinili preferiti, che avevano il suono tipico del jazz, dello swing, le big band, i cantanti. Però ecco, c'è uno strumento in particolare che tu non hai mai sopportato tanto, e credo che anche per colpa di questo strumento, suonato magari con gli effetti distorto e saturo, per questo motivo forse tu non ti sei mai avvicinato al mondo del rock o del rock and roll, che è la chitarra elettrica. Perché hai questo problema? Sei repellente al suono della chitarra? Non sono repellente. Per esempio, il suono della chitarra acustica con la bossa nova è l'ideale, mi fa sognare, mi tranquillizza, è piacevole. Il suono della chitarra elettrica, specialmente quando cercano di tirare le corde che ti arriva il suono. Sì, ti trasporti. Lo so. Ma lo sai che questa cosa un po' me l'hai trasmessa. Io adoro i chitarristi, ce ne sono alcuni fantastici con i quali ho anche collaborato. Però, sinceramente, se nelle produzioni contemporanee c'è molto la presenza della chitarra, ho qualche problema. E la colpa è la tua, è sempre la tua. Se la chitarra è suonata come Charlie Christian, Herb Ellis e altri. Sì, George Benson, Joe Pass. Allora è gradevole, è piacevole, come tutto, come gli altri strumenti che sono. Ma quando stridula. Lo vedo, ma mi fa già impazzire. Sì, lo vedo. Al pensiero ti stai già alterando. Vabbè, allora ascoltiamo un'altra cosa contemporanea, sempre legata al mondo del jazz, perché vedi, ti sto servendo su un piatto d'argento musica con suoni contemporanei, ma che è sempre vicino al tuo mondo, quello del jazz, ok? Allora, ti piacciono, che so, i Manhattan Transfer? Mi sono sempre piaciuti, Gigi. Certo. Ma tu ti dico un altro gruppo che forse tu non conosci. Quale? I Manhattan Transfer. Beh, ma l'abbiamo detto. Allora, te li faccio sentire in questa loro versione del capolavoro di Joe Zawinul, che poi li ha consacrati, che è Birdland e Manhattan Transfer. Poi c'è un'altra band che mi è sempre piaciuta. Lo sai qual è? I Manhattan Transfer. Soundcheck, il suono della musica. E questa è la bellezza del jazz. Pensate, un brano che ha fatto la storia di questa musica, scritto non si sa se negli anni 30 o negli anni 20 da William Christopher Handy, riproposto da Herbie Hancock e dalla splendida voce, dall'armonica a bocca inimitabile di Stevie Wonder, qui al Soundcheck di Radio 24, in questa giornata con ospite del Groovemaster Studio mio padre, l'architetto Roberto Telesforo, e tutta la sua passione per la musica. È bello, guarda, è bello perché praticamente ci ritroviamo insieme ad ascoltare musica e a dire stupidaggini, così come facevamo quando io ero bambino. Non siamo cambiati. No. E questa è la cosa bella. Tu farai 80 anni a gennaio, io martedì ne faccio 53 e stiamo sempre qua. Povera mamma che invece dove sta? Sta di là. Mia madre è sempre stata di là quando noi parlavamo e ascoltavamo musica. Vabbè, comunque la salutiamo, così come salutiamo tutti gli altri parenti, così non si offende nessuno, va bene? Certo. Ok papà, allora sai che siamo ai saluti di questa prima parte, però no. Poi ci facciamo una bella passeggiata, andiamo a prendere, che ne so, un tè, un gelato, quello che ti va, e torniamo alle 19:15 per la seconda parte, quella finalmente più vicina al tuo mondo, quindi al jazz, ai classici del jazz, e ho delle novità nel senso che stanno ripubblicando dei classici, degli album favolosi, e quindi li presenteremo nella seconda parte del Soundcheck di questa domenica. Allora chiudiamo in bellezza? Yes. Quincy Jones. Se ti dico Quincy Jones e ti dico Benny Golson, sassofonista favoloso, che ha scritto questo brano, qual è il brano? Killer Joe. Ma guarda, complimenti, è veramente come se tu avessi ascoltato musica dalla mattina alla sera per tutta la vita, facendomi una testa così, e soprattutto a mamma che è di là. Quincy Jones con Killer Joe. E naturalmente vi salutiamo, ci sentiamo più tardi, sempre qui su Radio 24 per il sound check. Grazie papà, ci vediamo dopo, facciamo una passeggiata. Check one two, mic check one two, mic check one two, mic microphone check check one two. Sound check, il suono della musica di DJ Telesforo. Buonasera a tutti, ben ritrovati al Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. In questa domenica avete sentito un piccolo colpo di tosse che serve al mio papà per schiarirsi la voce. Sì, perché in questa domenica è ospite del Groove Master Studio l'architetto Roberto Telesforo, ovvero il mio papà. Buonasera papà, ben ritrovato. Buonasera gente, ben trovato. Ecco, come va, come è andata questa giornata piena di musica e di dischi? Eccezionale. Siamo tornati indietro nel tempo. Ti consiglio di avvicinarti al microfono, così la tua voce diventa puoi anche un stare po'... ecco. In questo studio nella Groove Master ore ti riempie strumenti musicali, dischi eccetera. Sei nel tuo mondo, bellissimo. Sai che io non ho mai capito perché poi hai scelto di fare l'architetto da grande invece di fare il musicista o il giornalista di musica? Perché tuo nonno, mio papà, era ingegnere e allora per noi era facile introdurci nel lavoro, mondo del mattone. Io e mio fratello abbiamo fatto architettura. Peccato, perché invece ti avrei visto bene come sassofonista e probabilmente avremmo anche potuto suonare insieme, ma magari ci rifaremo. Da grandi ci rifaremo. Ok, allora veniamo alla musica. C'è un disco bellissimo, mio caro papà, che voglio farti ascoltare. La signora Carmen McCree, eccellente cantante, aveva da ragazzina studiato pianoforte, però non si sentiva mai a proprio agio con le mani sulla tastiera e quindi aveva il buon gusto di portare con sé nelle produzioni discografiche e in concerto eccellenti pianisti, finché un giorno non ha incontrato quello che lei considerava il miglior pianista in circolazione in quel momento, e ti sto parlando della fine degli anni 50, primi anni 60, e il pianista era un pianista bianco chiamato Dave Brubeck. Quello che scrisse Take Five, brano che poi è stato riproposto anche da vocalist più moderni, contemporanei, come Al Jarroni, ha fatto una versione bellissima. Ma il brano, la versione che vi voglio far ascoltare, è proprio ripresa dal vivo nel 1961, esattamente in un concerto fatto a New York il 15 di dicembre del 61. Papà, avevo 2 mesi. E Carmen McCree e Dave Brubeck con il suo trio, quindi Eugene Wright al contrabbasso e il batterista, chi era il batterista di Dave Brubeck in quel periodo? Doveva essere Joe Morello. Papà, complimenti, sei veramente forte. E il brano è proprio il classico di Dave Brubeck, intitolato Take Five. Perché lo intitolò Take Five il brano? Lo dice la parola stessa, papà, è 5/4. Era un brano in 5/4. Papà, sei favoloso. Dave Brubeck con la voce di Carmen McCree in Take Five qui al Soundcheck di Radio 24. È una versione dal vivo 1961 insieme in un club. Il trio del pianista Dave Brubeck incontra la voce di Carmen McCree in questo classico intitolato Take Five, e come diceva il mio papà, brano intitolato così proprio perché aveva un movimento in 5/4, e infatti è un brano di riferimento per tutti i musicisti di jazz contemporanei, perché è su questo brano che si fanno esercizi di swing in 5. Continuiamo ad ascoltare Dave Brubeck. C'è un album che viene nuovamente pubblicato in Italia e distribuito da Egea, che sta facendo un grande lavoro per il jazz, album in origine prodotto per la Columbia Records, sempre con il quartetto di Dave Brubeck, quindi Gene Wright al contrabbasso, Joe Morello alla batteria. Papà, chi era il sax contrabbasso? contralto del quartetto di Brubeck. Il contrattista eterno. Brubeck era Paul Desmond. Paul Desmond al sax contralto, il brano, un altro classico di Dave Brubeck, una melodia splendida, anche la versione di Miles Davis di In Your Own Sweet Way è favolosa, ma questo è l'originale con tanto di orchestra da questo album intitolato Brandenburg Gate. Dave Brubeck Quartet al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Ebbene, come si fa a non riconoscere il sound, il suono della tromba di Miles Davis, inimitabile, in Fram Dance, una delle sue composizioni più belle, brano scritto intorno alla metà degli anni 50 e qui proposto al soundcheck di Radio 24 da quella che potremmo considerare la nazionale di tutti i tempi del jazz, perché anche il mio papà ha provato dei brividi, ho visto proprio i tuoi peli rizzarsi sulle braccia quando hai sentito il sax tenore di... Joe Coltrane, il contralto di Nat Adderley, di Conobalatterly, fratello Nat, suonava la tromba. Sì. E poi chi c'era ancora? Mamma mia, vabbè, al piano ci doveva stare o Bill Evans. Bill Evans, era Bill Evans, papà, te lo dico subito: c'era Bill Evans al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. Quindi la nazionale del jazz di tutti i tempi. E questo è un altro album di Miles Davis, 1958, il titolo di questa produzione splendida con vari standard come On Green Dolphin Street, Love for Sale, ma soprattutto questa versione di Fram Dance da brividi. E visto che c'era Conobalatterly, passiamo invece a una produzione proprio di Julian Conobalatterly, album intitolato Sophisticated Swing, anche questo un album della fine degli anni 50, esattamente registrato nel 57, sempre a New York. Con Conobalatterly troviamo sempre suo fratello Nat Adderley alla tromba, Junior Mans al pianoforte, Sam Jones al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. E qui presentiamo un bluesacchione proprio con il contrabbasso di Sam Jones in grandissima evidenza. Sam Jones qui fa un assolo eccezionale, vecchia scuola, Oscar Peterford, Ray Brown. Bravo, perfetto papà, esattamente così, il contrabbasso che piace a noi. Allora, Conobalatterly, il brano si intitola Miss Jackie's Delight, qui al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. E questa mattina con il mio papà, sempre qui al soundcheck, parlavamo di quanto non sopporti il suono distorto delle chitarre, però questa chitarra ti è piaciuta. Grant Green con il suo quartetto, anche lui album intitolato Nigeria, qui al soundcheck di Radio 24, anche questa una pubblicazione rimasterizzata su CD, e con lui c'è sempre Sam Jones al contrabbasso. Quanti dischi ha fatto Sam Jones in quel periodo? Sonny Clark al pianoforte e poi il campione dello shuffle alla batteria, uno dei nostri batteristi preferiti, il meraviglioso Art Blakey, che proprio tu papà mi portasti a vedere dal vivo con i suoi Jazz Messengers, ma ormai molti anni giugno fa. 1978, Ravenna. A Ravenna nel 78 andammo a vedere Art Blakey e Jazz Messengers. Mamma mia quanto tempo è passato. Allora, siamo ai saluti. Il brano era comunque I Concentrate on You, brano scritto da Cole Porter per Grant Green, e siamo ai saluti. E visto che stiamo parlando di chitarre, passiamo invece alla chitarra di riferimento del jazz di oggi, e sì, sono due, Pat Metheny, ma poi c'è John Scofield, che è uno dei miei preferiti, che incontra nuovamente in un album nuovissimo distribuito dalla Sony Medeski, Martin e Hood, album intitolato Juice. Quindi ritrova questo trio che lo stesso Scofield lanciò più o meno una quindicina di anni fa. Il brano recuperato dal repertorio del sassofonista Eddie Harris, un altro visionario musicista degli anni 70, quello che ha scritto Freedom Jazz Dance. Il brano si intitola Shumtime, e quindi John Scofield con Medeski, Martin Hood a chiudere questo appuntamento del nostro soundcheck. Grazie papà per la visita, sono stato benissimo con te, come se ci conoscessimo da sempre. È stato un piacere per me, ringrazio Radio 24 ancora una volta. Io ti ringrazio papà, sei stato favoloso. Adesso ascoltiamo John Scofield e poi ci andiamo a fare una bella mangiata, va bene? Grazie a tutti voi, buona settimana e buona musica da Giorgio Telesco. Soundcheck, il suono della musica.